Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi sono molto emozionato. Quando sono emozionato, faccio una confessione, quando sono emozionato si esalta molto il mio rapporto con la S. Blesa. E quindi sono continuamente turbato dal pensiero che quando dovrò nominare i capi delle due formazioni di sinistra in Grecia e in Spagna, darò lavoro a Maurizio Crozza per molto tempo. E sarà contento Maurizio Crozza, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che vendolo abbia questa F particolare, Tsipras, magari sarà difficile nominarlo, scherzava. Naturalmente si dice emozionato, sapete che ha vinto appunto il partito della sinistra radicale con il leader Tsipras in Grecia, capiremo poi tutte le conseguenze. Molti si sono subito affrettati a voler applaudire, a stringergli la mano, a chiedergli un incontro. Vi ricordate la paura che faceva prima delle elezioni? Ne parleremo in modo approfondito questa sera. E poi naturalmente, ritornando a Vendola, oggi ha detto cerchiamo di fare il nome di un possibile candidato al Quirinale che emozioni l'Italia. Allora, venerdì qui a Effettonotte abbiamo fatto un sondaggio, io con voi, insomma, di quale fosse il più impopolare dei possibili candidati, e devo dire ha vinto Amato, Giuliano Amato, che tra l'altro ha vinto anche in altri sondaggi come impopolarità rispetto all'opinione pubblica. Poi che si continui a fare il suo nome come possibile candidato all'interno dei partiti, quella è un'altra cosa. Ci sono vari nomi, però voi provate a pensare, stando su questo invito di Vendola, chi potrebbe emozionare di più il popolo italiano. Stavo dicendo il numero verde, no, il 349-238-6666, che è il numero per i messaggi, sono i vostri canali qui a Effettonotte per interagire, sms al 349-238-6666, oppure è sempre lì per voi la pagina Facebook di Effettonotte, non si muove, non si leva mai, è lì per accogliervi naturalmente se volete aderire senza indugio, e anche per scrivere i vostri commenti. Parleremo di questo, ci sarà stasera, dovrebbe esserci uno dei maggiori rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e ci dirà anche se hanno intenzione di fare loro un nome in particolare o se aspettano sempre questi quattro nomi da Renzi. Poi avremo altri appuntamenti anche con Veribello, questo sito dedicato all'Expo di Milano. Veribello, vi piace? Sembra quasi inventato da Renzi un nome di questo tipo. Avremo modo di parlare insomma di un sacco di cose, ma cosa faccio di solito all'inizio? Vi racconto in sintesi la giornata. Il voto in Grecia, naturalmente, partiamo da questo. Tsipras giura come primo ministro e per avere la maggioranza si allea con la destra, e Juncker lo invita ad andare a Bruxelles al più presto. Quirinale, Renzi serra le file del PD, annuncia per il Colle un nome secco, entro sabato ci sarà il nuovo presidente, tregua con la minoranza del PD, da domani le consultazioni coi partiti. Il processo per la Costa Concordia, chiesti 26 anni Peschettino, per il PM si è comportato da incauto idiota, chiede l'arresto per rischio di fuga, ma l'ex comandante dice non scappo. Ucraina, Putin accusa Kiev di essere al servizio della NATO, oggi i curdi hanno riconquistato la città di Kobane. Incidente aereo, un F-16 si schianta in fase di decollo in una base aerea spagnola, 10 i morti. New York, in arrivo sulla Grande Mela una tempesta di neve senza precedenti, il governatore Cuomo dichiara lo stato di emergenza. Svolta in Gran Bretagna, consacrata la prima donna vescovo, rito solenne nella cattedrale di York. Lutto nel mondo della musica, è morto ad Atene il cantante greco Demis Roussos, esordì con The Aphrodite's Child e con Vangelis anticipò la World Music. E poi per il calcio, partite di campionato, Empoli-Udinese che si è conclusa per 1-2 per l'Udinese, ora in campo tocca al Napoli che ospita il Genoa. Naturalmente in primissimo piano partiamo dalle elezioni greche. Il leader di Siriza, Alexis Tsipras, che Vendola è preoccupato di pronunciare, il nuovo primo ministro della Grecia, ha giurato nel primo pomeriggio davanti al presidente della Repubblica Greca, un giuramento che per la prima volta nella storia del paese è stato solo civile e non religioso. Non avendo però raggiunto la maggioranza assoluta per due soli seggi, Tsipras ha stretto un accordo di governo con il leader del partito nazionalista di destra dei greci indipendenti. Renzi gli ha scritto una lettera: caro Tsipras, Tsitsipas davanti a te una sfida impegnativa, e dice le vicende greche sono sotto gli occhi di tutti con grande partecipazione. E per un'analisi su questo voto così atteso vi do appuntamento a tra poco. Intanto vi ricordo che domani Il Sole pubblica uno speciale di 8 pagine sulle 24 ore sull'effetto del voto greco sull'Europa, sui mercati, i risparmiatori, sui conti dell'Italia. E adesso passiamo all'Europa e le reazioni. Il presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, all'Eurogruppo, secondo quanto riferiscono fonti europee, ha ribadito: senza un'accelerazione delle riforme il programma di acquisti della Banca Centrale non avrà un impatto duraturo sulla crescita. E Draghi è stato tra i primi oggi a commentare in Europa le elezioni in Grecia. Una reazione lenta e a tratti imbarazzata, ma con un messaggio abbastanza univoco: discutiamo pure sul quando ripagare i debiti greci, ma non sul se. L'Europa reagisce così il giorno dopo l'elezione nazionale più difficile da quando è iniziata la crisi. Solo qualche ora dopo il giuramento di Tsipras sono arrivate le congratulazioni di Pragmatica del presidente del Consiglio europeo Tusk, che non ha mancato di ricordare il sostegno continentale ad Atene nei marosi della crisi. Poco prima il presidente francese Hollande aveva invitato Tsipras a recarsi presto a Parigi. Molto meno calda la reazione tedesca. Il governo di Berlino offrirà al futuro esecutivo greco la propria collaborazione, ma gli impegni vanno mantenuti, ha dichiarato il portavoce della Merkel. Quindi no a un ulteriore taglio del debito pubblico. Divisa la Commissione europea tra chi, come il presidente Juncker, guarda al lavoro da fare e ostenta calma, chi come il lettone Dombrovskis chiude ad Atene e chi come il francese Moscovici auspica una ripresa del dialogo. Chiaro il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem: we stand ready to work with them. Non vedo alcun sostegno per una cancellazione del debito, abbiamo fatto già tanto per alleviarne il peso allungando le scadenze e agendo sui tassi, siamo pronti a discutere col nuovo governo, ma lavorare con l'Eurozona significa accettarne tutte le condizioni. Il presidente della BCE Draghi gioca di fino, rilevando come la pressione fiscale ellenica sia di poco superiore al 34%, meno di Germania, Francia e Italia. Sergio Nava, Radio 24 e Sole 24 Ore. E siamo alla politica italiana, a 3 giorni dall'inizio delle votazioni per scegliere il nuovo capo dello Stato. Il nome ancora non c'è, anche se tanti ne circolano. Matteo Renzi nel frattempo incontra deputati e senatori Dem per arrivare con un partito compatto al voto sul Quirinale. Nei primi 3 scrutini Dem voteranno scheda bianca, al quarto, previsto per sabato mattina, ci sarà un nome secco. Renzi però avverte: non è un referendum sul governo su di me, l'elezione per il Colle va separata anche dalle riforme e dalla legge elettorale. Chi non condivide il nome del candidato dovrà dirlo apertamente, così il vice segretario PD Lorenzo Guerini. Da parte nostra c'è la volontà di confrontarci con tutti per arrivare ad una scelta condivisa, e credo che ci siano le condizioni per poterlo fare. La lezione del 2013 credo che debba aver insegnato molto a tutti, quindi sono certo che da parte del Partito Democratico, ma penso di tutto il Parlamento, ci sarà serietà e responsabilità nell'affrontare questo appuntamento importante. Pippo Civati dice subito di no e propone Romano Prodi, mentre più possibilista Stefano Fassina, per il quale è importante che il PD superi unito la prova Quirinale. Intanto Silvio Berlusconi mette il veto su Sergio Mattarella, mentre Matteo Salvini avverte: la Lega è determinante. In tutto questo si vota al Senato l'Italicum con i mal di pancia della minoranza Dem. Davide Zoggia. Se la legge elettorale, come pare domani al Senato, verrà approvata con i voti determinanti di Forza Italia e non con i voti, diciamo, del PD, pone un problema. Io credo che dopo il Colle sarà assolutamente necessario un passaggio parlamentare. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E passiamo al processo per la Costa Concordia. A Grosseto si è conclusa oggi la lunga requisitoria della Procura al processo per il naufragio, e queste sono le richieste di condanna per l'ex comandante Schettino. Sentite. Dio abbia pietà di Schettino, perché noi non ne possiamo avere alcuna. Non può esserci sconto per Francesco Schettino, il comandante della Concordia naufragata 3 anni fa davanti al Giglio. Non può esserci sconto né attenuante per quest'incauto idiota, per dirla con la Procura, che chiede 26 anni di carcere per omicidio colposo, disastro e abbandono di nave, e poi 3 mesi di arresto per pericolo di fuga per l'unico imputato rimasto nel processo per il peggior disastro in mare degli ultimi tempi. 32 morti, decine di feriti. E solo per caso, avverte il PM Navarro, non c'è stata un'ecatombe, vista la bravata del comandante e poi la sua condotta quella notte, ripercorsa dal collega Pizza. L'incauto idiota che cumula in sé l'ottimismo e la supervalutazione delle sue capacità. Stavolta non c'è in aula Schettino ad ascoltare una richiesta di condanna che è quasi un ergastolo, critica l'avvocato Laino. Il rischio è inesistente. Com'è possibile che delle persone abbiano una responsabilità così larvata rispetto alla responsabilità che si attribuisce al comandante Schettino arrivando a 26 anni e 3 mesi manco Pacciani? La sentenza è attesa dopo il 9 febbraio. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Sostiamoci adesso sulle tante notizie dall'estero. È salito a 10 morti e 13 feriti, dei quali 7 gravi il bilancio dell'incidente nella base aerea di Las Lanos ad Albacete, dove in Spagna, dove è precipitato un F-16 greco in fase di decollo mentre partecipava al programma di formazione di piloti della NATO. E tra i feriti ci sono anche 9 militari italiani, 2 in condizioni più gravi. E si inasprisce ulteriormente lo scontro tra Russia e Ucraina e i suoi alleati occidentali alla vigilia di 2 importanti riunioni sulla crisi in Ucraina orientale. A 9 mesi dall'inizio, la guerra nell'est dell'Ucraina vive una fase di ulteriore radicalizzazione. Dopo i bombardamenti e le rappresaglie che hanno fatto seguito alla caduta in mani separatiste dell'aeroporto di Donetsk, sono ora le parole di Putin che puntano esplicitamente alla delegittimazione dell'avversario quando spiega, alla vigilia di una riunione straordinaria della NATO, che l'esercito di Kiev non è altro che una legione straniera di bande nazionaliste utilizzata dall'Occidente per imbrigliare la Russia. Il tutto mentre l'SBU, il servizio segreto di Kiev, dichiara di avere le prove che dietro il bombardamento del 24 gennaio alla città di Mariupol, che ha ucciso 30 civili ferendone 93, c'è la mano di Mosca, decisa ad aprirsi un corridoio di collegamento con la Crimea annessa lo scorso anno. Il capo dei servizi ucraini mostra in video la confessione di un agente di confine ucraino, presunto agente russo, che confessa di aver passato via SMS le coordinate per il bombardamento a tale Pepel, che altri non sarebbe che un comandante di un battaglione di artiglieria. Intanto si segnalano nuove vittime a Donetsk, almeno 2 civili uccisi e 2 feriti nelle esplosioni che si sono abbattute sul quartiere Kirovsky, considerato una roccaforte dei separatisti. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Vedo una notizia di calcio appena uscita che riguarda Cassano, ne parleremo tra pochissimo. Intanto restiamo sulle notizie dall'estero. Perù, una coppia di coniugi, lui veronese, lei peruviana, il figlio di 5 anni, sono morti in un incidente lungo il Maranon in Perù. I 3 erano a bordo di un'imbarcazione che si è rovesciata, nella quale viaggiavano un'altra 20 di persone che sarebbero scomparse nelle acque del fiume. E della tempesta di neve invece senza precedenti che sta per abbattersi su New York ne parleremo tra poco con un meteorologo. Più di 3.500 voli intanto sono stati cancellati in previsione di questa tempesta. Circa 50 milioni sono le persone che vivono nell'area colpita dalla bufera che ha fatto e che hanno fatto per il momento provviste. Il sindaco De Blasio dice state chiusi in casa. Svolta in Inghilterra, consacrata la prima donna vescovo con un rito solenne nella cattedrale di York, lei è Libby Lane, 48 anni, assume la guida della diocesi di Stockport. E poi torniamo in Italia con la cronaca. Fabrizio Corona, il tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto una perizia psichiatrica su Fabrizio Corona per accertare le sue condizioni di salute, in particolare alla luce della consulenza tecnica depositata dalla difesa, nella quale viene spiegato che l'ex re dei paparazzi soffre di depressione, ansia, attacchi di panico e psicosi. E ora occupiamoci del sindaco di Salerno, condannato e sospeso dall'incarico, ha vinto il ricorso al TAR. Torna al suo posto Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno, che la scorsa settimana era stato sospeso dall'incarico sulla base della legge Severino. Il TAR di Salerno oggi ha infatti accolto la richiesta presentata dai suoi legali, sospendendo il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla prefettura. I giudici amministrativi esamineranno la vicenda nel merito il prossimo 19 febbraio. Nel frattempo però hanno reintegrato il primo cittadino che nel suo ricorso ha sollevato anche un'eccezione di incostituzionalità della legge Severino, come già fatto dal sindaco di Napoli De Magistris. De Luca era stato sospeso dopo la sentenza di primo grado nel processo sul termovalorizzatore di Salerno, che lo ha visto condannato per abuso d'ufficio ad un anno di carcere con pena sospesa e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici, una vicenda che sta creando più di qualche imbarazzo anche al suo partito, il PD. De Luca infatti è uno dei candidati nelle primarie del centro-sinistra per le prossime regionali in Campania e nonostante la condanna ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di ritirarsi dalla corsa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso la vicenda di cronaca, vi ricordate Maricica Hayanu, infermiera uccisa con un pugno l'8 ottobre del 2010 nella stazione della metropolitana della Nagnina a Roma da un giovane romano Alessio Burtone, in seguito a una discussione per la precedenza in una fila. Bene, i suoi parenti, i parenti di Maricica hanno saputo dalla TV della scarcerazione in anticipo di 4 anni. Di Burtone sono disperati. Il loro avvocato, l'avvocato di famiglia di Giovanni, difensore dei familiari di Maricica, sottolinea: il problema è a monte, si stanno depenalizzando reati socialmente pericolosi con il rischio che i cittadini non vengano più tutelati e si arrivi alla paura di uscire di casa. Questa voce, morto ad Atene a 69 anni il cantante greco Demis Roussos, esordì con gli Aphrodite's Child, fu antesignano della World Music, voce e basso nel gruppo con Vangelis, compositore di musiche per film, si impose con Rain and Tears, momento d'oro invece da solista negli anni 70, We Shall Dance e Forever and Ever che state sentendo. E siamo al calcio con il nostro Dario Ricci, non solo per la Serie A e campionato. Brevemente ti dico, se hai visto questa agenzia, certamente l'avrei vista, di Cassano che ha sciolto il contratto con il Parma. È proprio da là Roberta comincerei. E cominciamo, dai, sì. Rotto il contratto con il Parma, un Parma che a dir poco deve ancora assestarsi dopo il passaggio di mano della gestione Ghirardi alla nuova proprietà e che quindi ha le prese con conti tutti ancora da mettere a posto. E allora Cassano rescinde il contratto, rescisso il contratto vuol dire che è a disposizione a parametro zero sul mercato. Cosa vuol dire? Che chi volesse in questo momento Cassano dalle proprie fila dovrebbe corrispondergli e trovare unicamente l'accordo sull'ingaggio. Quindi insomma è diciamo un pezzo pregiato per questo mercato invernale, anche se chiaramente Cassano è un giocatore che tutti conosciamo con i suoi pregi e i suoi difetti. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, questa infinita ventesima giornata di Serie A sta per concludersi. L'Udinese ha vinto ad Empoli per 2-1, reti di Di Natale, il pareggio momentaneo dei toscani di Saponara su calcio di rigore, il gol decisivo di Widmer, mentre in campo c'è il Napoli che ospita il Genoa al San Paolo. Siamo al 16° di gioco e Napoli già in vantaggio per 1-0 grazie alla rete e al 7° minuto di Gonzalo Higuain, bravo a ribattere in porta una respinta di Perin su tiro di Calleone. Quindi Napoli in vantaggio per 1-0 sul Genoa, quando al San Paolo siamo al 16°. E invece qui a che punto siamo? Siamo alle 21:18:38, vogliamo metterci anche i secondi. Vedo i vostri messaggi al 349-238-6666. Su quale presidente, donna, uomo, al Quirinale, insomma, vi emozionerebbe di più? Vendola ha detto qualcuno che ci emozioni. Nicola Gratteri dice Marco 88. Poi invece Gilberto dice: se fosse possibile il doppio incarico sicuramente emozionerebbe Papa Francesco. Beh, doppio, triplo, sestuplo incarico in realtà in molte situazioni c'è. Vedo ancora qualcuno che cita ancora Gratteri, qualcuno dice invece assolutamente Prodi il cervello più grande che abbiamo, dice un ascoltatore. Poi tra poco passerò alla pagina Facebook di Effetto Notte, voi intanto ragionateci e aggiorniamo chi sta viaggiando. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Anna invece al 349-238-6666, su un presidente che emozioni, come chiede Vendola, scrive: inutile illudersi e pensare a una figura che faccia emozionare, sarà un personaggio di basso profilo che non oscuri il premier e frutto di inciuci trasversali. Così insomma, piuttosto rassegnata Anna. Adesso vi ricordo quali sono le notizie principali del giorno e poi cominceremo a affrontarne una in particolare. E dunque Tsipras giura da premier in Grecia, governo con la destra perché mancano due seggi, un governo anti-rigore, l'Europa dialoga ma non cancella il debito perché dice l'Europa abbiamo già fatto tanto. Poi Renzi al PD per il Colle, un nome secco, sabato si avrà il presidente, intanto l'Italicum giunge al traguardo, c'è stato l'ok agli emendamenti su il premio di maggioranza e la soglia minima che è del 3% per poter entrare in Parlamento. Schettino, incauto idiota, così dice il PM nella requisitoria del processo e chiede una condanna a 26 anni e anche l'arresto per rischio di fuga, ma lui dice non scappo. Un F-16 che si schianta sulla base NATO in Spagna, almeno 10 morti, il jet greco era al decollo, anche 9 italiani tra i feriti. E poi il naufragio in Amazzonia, l'Amazzonia peruviana, morti 3 italiani, una famiglia veronese, madre, padre e un bimbo di 5 anni. Bufera di neve attesa su New York, l'allarme del sindaco De Blasio, sarà la tempesta perfetta, preparatevi al peggio, dice. E poi l'addio ad Demis Roussos, il cantante greco che con Vangelis anticipò la world music. Parliamo allora del voto in Grecia, il trionfo della sinistra radicale. Abbiamo detto il leader di Syriza, il partito della sinistra radicale, Tsipras, vincitore delle elezioni di domenica. Ha giurato oggi come primo ministro, è stato incoronato ufficialmente dal presidente Papoulias, nuovo primo ministro della Grecia, ma non ha, vi dicevo, la maggioranza assoluta. Ha ottenuto 149 seggi, due in meno della maggioranza necessaria. Gli mancano quindi questi due seggi e ha dovuto fare, sta facendo un patto con la destra nazionalista dei greci indipendenti. Un'alleanza, come si può immaginare, da molti ritenuta piuttosto paradossale, bizzarra. Lo chiediamo anche a Dimitri Deliolanes. Buonasera, Deliolanes. Buonasera. Corrispondente in Italia per il canale televisivo greco ERT, autore di La sfida di Atene, Alexis Tsipras contro l'Europa dell'austerità, Fandango Libri. Deliolanes, quindi effettivamente a vederla di fuori, a parte poi parleremo prima di tutto naturalmente di come si è arrivato alla vittoria Tsipras, però poi costretto a questa alleanza con la destra nazionalista, no, sinistra radicale da una parte, destra nazionalista da una parte, insomma uno strano connubio. No, veramente sembra così, a chi ha seguito distrattamente la politica italiana greca degli ultimi due anni, per la verità. La collaborazione c'era già stata in parecchie occasioni e aveva raggiunto l'apice nelle elezioni presidenziali del dicembre scorso, quando tutti e due i partiti avevano collaborato per non eleggere il presidente, quindi provocare le elezioni anticipate di ieri. Perché hanno comunque dei punti in comune ideologicamente, no? No, ideologicamente hanno poco in comune, appunto essendo uno un partito della sinistra radicale e l'altro un partito di centrodestra. L'antirigorismo. Esatto. Hanno un programma politico molto, io direi praticamente simile nel rifiutare la ricetta dell'austerità e quindi su questa base, che è il programma centrale, il punto centrale diciamo del piano di governo di Tsipras, l'alleanza è parsa più che naturale. Deliolanes, Tsipras quando si è iniziato a capire in Grecia che poteva davvero arrivare a questo risultato? Vincere? Sì. Ma dall'indomani delle elezioni europee. Perché? Perché si era visto il risultato delle elezioni europee che confermava intanto il 27% di elettori fedeli a Syriza e vedeva il crollo delle forze avversarie, delle forze pro-austerità. Lo ricordiamo, Deliolanes, quali sono i punti principali del programma di Tsipras e quindi quelli che evidentemente hanno trovato grande consenso, grandissimo consenso in Grecia? Allora, la cosa più importante che ha sedotto le menti e i cuori è il riconoscere, prendere atto del fatto che la ricetta di austerità in Grecia ha provocato solo disastri sociali e non ha ottenuto nessuno dei fini che si proponeva, come per esempio rendere più efficace il mercato del lavoro, l'amministrazione pubblica e quindi promuovere lo sviluppo del paese. Il paese continua a essere in una condizione drammatica, nessun investitore straniero è mai arrivato e non c'è all'orizzonte nessun tipo di sviluppo possibile, quindi rifiutare questa ricetta della troica è diventato un luogo comune tra la popolazione greca. Seconda cosa è che Tsipras ha elaborato una proposta che sembra in Italia viene un po' considerata come un dogma, mentre la verità è una proposta che è quella che riguarda il debito, nel senso che si fa un ragionamento dicendo abbiamo già raggiunto il surplus primario. Su questo surplus primario dei conti dello Stato greci pesa come un macigno il nostro debito, quindi vediamo una soluzione che non sia ovviamente solo per la Grecia ma che sia per tutti i paesi indebitati d'Europa. Si farà un negoziato, si parlerà insomma e si spera, io credo, ci sarà il buon senso per trovare una soluzione di compromesso. Di Giuliani, se le leggo un messaggio di Fulvio, di un ascoltatore, che dice: spero che il popolo greco non creda di tornare alla bella vita degli anni dei bilanci di Stato truccati. Quindi si parla di corruzione, evasione fiscale, comunque È una nuova forza politica che ha sbaragliato il vecchio sistema politico, l'alternanza al governo dei conservatori di Nuova Democrazia e socialisti del PASOK. Lo fa appunto dovendo rinnovare il sistema politico, quindi anche i costumi e anche la moralità dei nuovi politici. Si spera. Certo. Deliulano, se c'è una cosa particolare, anche il Vaticano è intervenuto, ha detto: questa può essere un'opportunità per l'Europa, un'occasione da non perdere, che sarà tale però solo se sarà accompagnata da una forte azione di responsabilità politica. Così l'ha salutato il Vaticano. Bellissima frase, io sono pienamente d'accordo per l'ennesima volta con tutto quello che dice il Vaticano di Papa Francesco. Devo ricordare che a settembre Tsipras si era incontrato con Papa Bergoglio e si erano trovati, era un incontro molto cordiale da quello che poi ci hanno riferito. Bene, non ci resta che guardare alla Grecia e vedere cosa succede. Grazie Dimitri Deliulanos. Grazie. Grazie, buona continuazione. Europa 24 notte. E restiamo sulla Grecia. Dopo questo voto l'Europa cerca di capire quale risposta unitaria dare alla Grecia di Tsipras, no? Che è giunta alla fine dell'austerity e rinegoziare il debito. L'obiettivo è comunque evitare uno strappo che potrebbe avere delle conseguenze traumatiche poi per tutta l'Europa. Ma quali conseguenze anche a livello politico potranno esserci nei prossimi mesi? Come e quanto passerà il voto greco sullo scontro in atto tra Germania e altri paesi del nord Europa che difendono l'austerità e altri paesi come Italia e Francia che spingono per più investimenti e flessibilità? Quali scenari potrebbero dunque aprirsi nei prossimi mesi? Alessandra Schepisi lo ha chiesto a Antonio Villafranca, responsabile dell'Osservatorio Europa dell'ISPI, l'Istituto Superiore di Politica Internazionale. La vittoria del partito di estrema sinistra Syriza è un terremoto per l'Europa e la perdita di credibilità della linea del rigore finanziario che di fatto poi non ha risolto la crisi in Grecia? Cos'è? Ma io non credo che questo rappresenti necessariamente un risultato disastroso per l'Europa. Lo stesso Tsipras non ha mai messo in discussione l'adesione all'Unione Europea né tantomeno l'adesione all'euro. In realtà l'80% del debito pubblico greco è nelle mani del Fondo Monetario e degli europei, quindi in realtà non ci sarebbe nessun motivo pensare che qualcosa di disastroso debba avvenire, purché ovviamente né l'Europa, in particolar modo i paesi del nord Europa da un lato, né Tsipras poi ovviamente si arrocchino su posizioni non conciliabili. Certo, se Tsipras chiederà la decurtazione del 50% del debito pubblico greco, che si tradurrebbe in un costo per la Germania intorno agli 8-9 miliardi, anche per noi italiani intorno ai 4-5 miliardi, questo potrebbe risultare appunto inaccettabile. Quale potrebbe essere la linea di compromesso? Perché Tsipras di fatto ha annunciato di volerlo rinegoziare il debito, quale linea potrebbero accordare secondo lei la BCE, la Commissione Europea? Ci sono i margini per una rinegoziazione di alcune condizioni riguardanti i prestiti che sono stati concessi alla Grecia. In particolar modo per quanto riguarda la dilazione nei tempi a disposizione di Atene per ripagare il debito. In realtà già la Grecia deve rimborsare questi prestiti nell'arco di 20-30 anni, non cambierebbe moltissimo se ad esempio si dilazionasse ancora un po', anche fino ad arrivare a 40 anni. Invece a livello politico, secondo lei quali conseguenze ci possono essere, visto che c'è uno scontro di fatto in Europa, uno scontro tra Germania e altri paesi del nord Europa che difendono le misure di austerità e poi Italia, Francia e altri paesi del sud che invece chiedono più investimenti, più flessibilità? Ci possono essere delle conseguenze di rafforzamento di una certa tendenza? Beh, non c'è dubbio che si sia trattato di un momento di svolta, perché in un certo qual modo il messaggio è chiaro: l'austerity ha raggiunto il punto massimo, il punto massimo in termini di sostenibilità per la gente. Vuol dire che da questo punto in poi la gente non vota più per i partiti tradizionali, ma per i partiti a sinistra e a destra che si pongono su posizioni più estreme, e non è strettamente il caso di Syriza, ma lo è per altri partiti in giro per l'Europa, anche posizioni fortemente eurocritiche e proprio di disintegrazione dell'Unione Europea. Però ecco, non dimentichiamo che quando qualcuno non rispetta i patti e non paga i debiti, c'è sempre qualcun altro che dovrà pagare al loro posto. Vuol dire che se appunto viene ristrutturato un'altra volta il debito greco e quindi non vengono pagati dei debiti da parte di Atene, vuol dire che le altre capitali europee dovranno pagare, e l'insostenibilità politica, diciamo, di questo vale anche nei paesi del nord, che potrebbero veramente vedere anche lì l'esplosione di partiti di estrema destra o di estrema sinistra. Quindi è necessario veramente che non si creino delle roccaforti da oggi in poi, ma che si porti avanti una negoziazione che sia di comune vantaggio per Atene, ma anche per tutte le altre capitali europee. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E prima di prenderci una pausa piccola, ancora qualche vostro messaggio dalla pagina Facebook di Effetto Note, poi potete continuare a scrivere anche al 349-238-6666. Messaggi, dice Luca, una persona onesta, il generale Rapetto della Guardia di Finanza, Mimmo Imposimato, il magistrato coinvolto nella lotta contro il terrorismo, contro la mafia. Poi dice Gino Strada, il generale Rapetto della Guardia di Finanza. E poi Alberto, perché no Oscar Giannino. Martin dice, perché no Paolo Mieli. Umberto Imposimato Forever dice, Chiara, lui no di certo, non so se si riferisce a Imposimato, probabilmente. Roberto cita Silvio Berlusconi come possibile presidente che possa emozionare, secondo la richiesta di Vendola, scegliete un nome che possa emozionare. Paolo dice, io penso Pietro Grasso. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi. Tra poco dovremo raggiungere Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, nonché deputato del Movimento 5 Stelle. Intanto continuo a leggere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia attraverso gli sms al 349-238-6666 le vostre proposte per un presidente che emozioni. Vendola oggi ha chiesto, facciamo un nome che emozioni il popolo italiano. Fabrizio da Padova dice Emma Bonino o Sergio Romano. Luigi, certamente Mattarella per tutta una serie di motivi. Marco da Monza scrive Ferdinando Imposimato o Stefano Rodotà. Clotilde dice, cara Roberta, mi sento depressa perché non trovo nessun nome che mi emozioni. E Civati si accoda, tutti quelli che sostengono il governo e le riforme strutturali sono per Prodi, e ricordo che esitò anche nel primo consulto web del Movimento 5 Stelle, dice Ale. Donatella, Cacciari forse non ha l'età. Prima di incontrare Luigi Di Maio vi ricordo quali sono state le notizie principali della giornata. Il voto in Grecia, Tsipras giura come primo ministro e per avere la maggioranza si allea con la destra, Juncker lo invita ad andare a Bruxelles al più presto. Quirinale, Renzi serra le file del PD, annuncia per il Colle un nome secco, entro sabato avremo il nome del presidente, avremo anzi il presidente, tregua con la minoranza del PD, da domani le consultazioni coi partiti. Il processo per la Costa Concordia, chiesti 26 anni per Schettino, per il PM si comportò da incauto idiota. Ucraina, Putin accusa Kiev di essere al servizio della NATO, incidente aereo, un F-16 si schianta in fase di decollo in una base aerea spagnola, 10 morti, ci sono anche diversi feriti tra cui 9 militari italiani. New York, in arrivo sulla Grande Mela una tempesta di neve senza precedenti. E poi lutto nel mondo della musica, è morto ad Atene il cantante greco Demis Roussos. Per il calcio Empoli-Udinese finita 1-2 per l'Udinese, ora in campo ci sono Napoli-Genoa e il Napoli è in vantaggio per 1-0. Sarà contento Luigi Di Maio, onorevole, del Napoli 1-0? Buonasera, sì, senz'altro non nascondo la contentezza, però insomma... E fa bene, ci mancherebbe. Al di là di questo, insomma, ci sono ben altri pensieri in questo momento da avere per il Paese, per cui purtroppo non si può essere felici. Luigi Di Maio, vicepresidente, vi ricordo, della Camera dei Deputati, nonché deputato del Movimento 5 Stelle. Allora, quindi siamo sull'elezione del Presidente della Repubblica, possiamo dire apertamente la partita del Quirinale, senza mezzi termini. anni, con la strategia ormai nota del presidente del Consiglio Renzi, che già lo diceva da qualche giorno, nonché leader del centrosinistra. Il PD nelle prime tre votazioni, cominceranno dal 29, prime votazioni del capo dello Stato, voterà il PD scheda bianca. Dalla quarta non ci sarà una terna di nomi, bensì un unico candidato, e per sabato avremo il presidente. Ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che nelle prime tre votazioni ci vogliono i due terzi del Parlamento perché possa essere eletto il presidente, mentre dalla quarta votazione basta il 50% più uno. Il Movimento 5 Stelle nei giorni scorsi, tramite Grillo e Casaleggio, e oggi l'ha ribadito anche Luigi Di Maio, ha chiesto di fare quattro nomi in modo da poterli proporre, da parte di Renzi, di poterli proporre alla rete, agli iscritti al Movimento 5 Stelle, e valutare quello più votato. A che punto siete, Di Maio? Siamo a un punto in cui siamo stati costretti stasera a scrivere a tutti i parlamentari del partito di maggioranza relativa, cioè il Partito Democratico, per chiedergli se sanno quali sono i nomi o il nome del futuro Presidente della Repubblica. Noi siamo in un momento in cui, se posso dare un contributo anche alla discussione che stavate facendo prima e seguito in radio, sì, in cui i cittadini sognano un presidente diverso, magari uno che veramente abbia il coraggio di tagliare col passato, che abbia il coraggio di dire no alla legge Fornero, di dire no a decreti che trasferiscono 7 miliardi e mezzo di euro alle banche, e dall'altra parte c'è una politica in cui ci sono 1.008 elettori del Presidente della Repubblica, perché i grandi elettori saranno 1.008 parlamentari e delegati regionali, più i senatori a vita da una parte, e forse 8 che conoscono il nome che verrà fatto sabato. Allora, quello che noi chiediamo al PD, prima l'abbiamo chiesto a Renzi, fateci i nomi così che possiamo eleggerlo insieme al primo scrutinio, rispettare anche lo spirito costituente del Presidente della Repubblica, un presidente di ampio respiro. Poi, capito che Renzi non voleva farlo, abbiamo chiesto oggi con una lettera ufficiale a tutti i parlamentari del Partito Democratico se conoscono il nome del Presidente della Repubblica che vogliono votare. Ci aspettiamo qualche risposta, perché per noi è inaccettabile che una carica così importante la si decida nelle segrete stanze del Palazzo. Noi vogliamo fare un processo che coinvolga i cittadini soltanto partendo da un altro presupposto. Due anni fa abbiamo fatto noi il nome chiedendolo ai cittadini, e loro non ce l'hanno votato, gli altri partiti, perché era nostro. Oggi noi chiediamo i nomi a loro in modo tale da chiedere ai cittadini se vanno bene e poi iniziare a votarlo. Di Maio, però intanto Renzi ha ribadito sarà un unico nome. Voi, con questa lettera che avete mandato tutti, sperate in un delatore o in uno invece che voglia rivelarlo, in modo che si possa già cominciare una discussione? Cioè, perché qualcuno del PD dovrebbe saperlo e dirlo? Diciamo che Renzi fa il suo nome. Il fatto è che il PD non è un solo partito, sono tante parti di partito, e ognuno ha, secondo me, in mente un Presidente della Repubblica differente. Se poi questo concetto lo eleviamo a tutto il Parlamento italiano, capiamo che i nomi possono essere tanti, ed è giusto che sia così. Solo che noi vogliamo un meccanismo trasparente, cioè che queste proposte ci vengano fatte, così che queste proposte noi le facciamo vagliare ai cittadini e decidiamo se è opportuno votare il più votato tra questi qua. Cioè, al centro di questa elezione del Presidente della Repubblica, del 12° Presidente della Repubblica italiano, dobbiamo mettere i valori: trasparenza, taglio col passato, aiuto ai cittadini, per esempio con un messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in cui chiede di instaurare un reddito di cittadinanza in Italia per 10 milioni di poveri. Questo potrebbe essere un punto di partenza che fa capire anche un po' l'utilità di un Presidente della Repubblica. Di Maio, però, sa che c'era questo lungo scontro con la minoranza PD da parte di Renzi? No, però Stefano Fassina, che è uno tra i più attivi della minoranza interna al Nazareno, oggi ha spiegato in realtà che secondo lui è importante che il PD riesca a superare la prova del Quirinale unito, ed è sbagliato, dice, l'impostazione di cercare un candidato contro, quindi bisogna essere uniti e anche colloquiare con Forza Italia. L'unico che si è ancora, diciamo, erto a ribelle dentro il PD è Pippo Civati, che ha scritto una lettera alla segreteria del PD e ha richiesto di candidare Prodi. Voi su questo nome che direste, Di Maio? Io credo che in questo momento l'errore più grande che si possa fare è pensare che una delle parti in causa siano i buoni e un'altra parte siano i cattivi. Molto spesso anche tutte le questioni politiche vengono viste come una sorta di partita in cui ci sono i buoni e i cattivi. Il PD, ma in generale i partiti, queste scissioni che stanno avvenendo, sono semplicemente il prodotto di un modello politico perverso per cui delle parti pensano che la politica sia affare loro. Quando gli interessi di queste parti non collimano più, iniziano le scissioni. Allora in questo momento il toto nomi noi lo vogliamo fare, sì, ma con i cittadini. Quindi se il PD ci vuole fare dei nomi, se i parlamentari del PD ci vogliono fare dei nomi, ce li facciano tramite le email che abbiamo chiesto in maniera trasparente, noi la faremo decidere ai cittadini. Se alla nostra email ci va del risposto Prodi, sarà uno di quei nomi da mettere in votazione. Ma il punto fondamentale è, alla base, che in questo momento tutto si sta facendo tranne che coinvolgere le persone, gli italiani, nella decisione del nome. Cioè dopo 3 votazioni sabato si fa il nome, se lo votano a maggioranza assoluta, che significa Berlusconi e Renzi del Nazareno, e finisce tutto lì. Così si fa un Presidente della Repubblica, così si alimenta un clima di tensione istituzionale, perché il Presidente della Repubblica dovrebbe essere l'arbitro, quello che dice: tu governo hai fatto una legge, a me non va bene, te la rimando indietro, tu Parlamento ve lo rimando indietro alle Camere, perché devo tutelare l'interesse degli imprenditori italiani su cui per esempio avete aumentato le tasse in maniera illegittima. Onorevole Di Maio, allora adesso abbiamo la viabilità, rimanga ancora un attimo qui effetto notte, io la lascio con questa domanda, poi mi risponde dopo se lei ha in qualche modo, voi del Movimento 5 Stelle, un sospetto su un possibile nome che hanno in serbo, come dice lei, Renzi e Berlusconi. A tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Siamo sempre con l'onorevole Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente della Camera. Stiamo parlando naturalmente della corsa al Quirinale. Dicevo, lei, onorevole Di Maio, ha un sospetto, visto che dite Renzi e Berlusconi decideranno tra loro quale nome fare, quale candidato eleggere. Voi avete un sospetto? Un sospetto sul nome? Sì. Sul nome. Ma no, io credo che in questo momento l'Italia corra due rischi, due pericoli. Uno è quello di trovarsi al Quirinale delle persone veramente, come dire, impresentabili, e in un altro rischio è che si ritrovino i surrogati degli impresentabili, cioè quelli magari dal bel volto, dalla bella fama, che però hanno gli stessi interessi e coprono gli stessi interessi degli impresentabili. Io credo che in questo momento l'unica cosa che è certa è che si è formata una nuova maggioranza del partito di Renzi e di Berlusconi, e di una parte del partito di Renzi e una parte del partito di Berlusconi, che hanno formato questa nuova maggioranza del Nazareno, e che tutto stanno facendo tranne che occuparsi dei problemi degli italiani, ma stanno in qualche modo cospirando per riuscire ad organizzare i loro interessi, come l'elezione del Presidente della Repubblica, ma anche il decreto legislativo sul fisco che prevedeva la norma salva Berlusconi, e ancora la ridefinizione della disciplina sulle banche popolari, che ha fatto schizzare alle stelle le azioni della banca di cui è vicepresidente il padre della Boschi, in questo della ministra Boschi. Rispetto a questo, i cittadini italiani sono tagliati fuori, noi li vogliamo riportare in partita, come diceva lei, la partita del Quirinale, facendogli decidere quale nome è più apprezzabile tra quelli che stanno nella partita. Di Maio, Renzi, davanti ad alcune parlamentari che facevano la domanda, ha detto sì, una donna potrebbe non essere esclusa, ma non è dirimente. Io posso scommettere qualsiasi cosa che non ci sarà mai una donna in tempi brevi al Quirinale. A lei piacerebbe? Io le dico, fermo restando che proprio statisticamente tutte le volte che le donne hanno occupato dei ruoli dirigenziali e di comando, i casi di corruzione sono diminuiti vertiginosamente. Io non sono uno di quelli affezionati al genere, o affezionati all'età, o affezionati alla provenienza per esempio geografica. Io credo che un Presidente della Repubblica debba saper rispettare i principi costituzionali e garantire i diritti dei cittadini, soprattutto quelli più deboli, che oggi sono imprenditori, sono disoccupati e giovani che emigrano. Ma un nome proprio non lo vuol fare, non lo volete fare di mai un nome? Niente, niente. Se sarà una donna, il nome lo devono fare gli altri, noi lo faremo decidere alle persone, come ben sa, e questo è assodato. Per quanto riguarda la donna, se sarà una donna che avrà ben chiaro il ruolo di Presidente della Repubblica e soprattutto vorrà fare gli interessi dei cittadini e non di Renzi e Berlusconi, che sono solo due cittadini su oltre 60 milioni di italiani, beh, allora ben venga. Di Maio, le faccio ancora due domande brevissimamente. Allora, domani dalle 9 alle 21 Renzi ha annunciato le consultazioni del PD con i vari partiti, voi siete gli unici, mi pare, che non andrete, Movimento 5 Stelle. Ma il Renzi Renzi ci ha invitato al Nazareno, alla sede del PD, per discutere il Presidente della Repubblica. Quando siamo stati contattati ci hanno anche detto che lì non ci faranno i nomi, ma semplicemente vogliono parlare. Io sono già stato ai tavoli con Renzi due volte sulla legge elettorale e so quanto evanescenti siano questi momenti per lo più mediatici. Noi non vogliamo far perdere tempo ai cittadini, anche perché il Presidente della Repubblica se ne parla già da un bel po' e troppo forse rispetto ai problemi del Paese, quindi abbiamo detto apertura massima, aspettiamo i vostri nomi, Renzi non ce li ha voluto fare e allora le abbiamo chieste ai parlamentari del PD, ma detto questo al Nazareno e soprattutto a fare tavoli che sono solo trovate mediatiche noi non ci andiamo. Non c'è. Ultimissima domanda, nota dolente onorevole Di Maio, lei lo sa che domani 10 parlamentari vostri annunceranno l'addio al Movimento 5 Stelle e da 163 che eravate dalle elezioni del 2013 siete arrivati a 137, meno 10 quanto siamo? 127. Saremo comunque la seconda forza politica del Parlamento, io però questa notizia l'ho presa dalle agenzie di stampa, non c'è stato nessun parlamentare che abbia palesato questa posizione. Domani quindi dovrebbe esserci questa conferenza stampa. Attendo come lei la conferenza stampa, c'è da dire che ormai in questo momento legata alla Presidenza della Repubblica c'è in corso una campagna acquisti, evidentemente o c'è qualcuno che sa comprare bene o qualcuno che si vende per poco. Dal mio punto di vista io credo che il Movimento 5 Stelle possa fare a meno di persone che preferiscono tradire il mandato elettorale piuttosto che portare avanti una battaglia di coerenza e onestà come quella che stiamo portando avanti da 2 anni ormai. Onorevole Luigi Di Maio, allora io la ringrazio, la saluto e le auguro buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Grazie, buona continuazione. Adesso invece spostiamoci su qualcosa di veribello, non so se vi piace questo termine, ma è il sito ufficiale che promuove gli oltre 1000 grandi eventi culturali in tutta Italia nei 6 mesi di Expo 2015 a Milano, inizia dal 1 maggio, è stato presentato sabato dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, però nelle prime 24 ore, tra il 24 e il 25 gennaio, sono arrivati più di 13.000 messaggi critici che fanno la parodia di questo veribello, non è piaciuto il nome, non è piaciuto il sito. Allora coinvolgo Andrea Barchesi, buonasera Barchesi. Buonasera. Amministratore delegato di Reputation Manager, che è un'agenzia che rileva la reputazione online sia dei brand, dei marchi che anche di personaggi pubblici. Mi pare che non sia molto gradito al momento questo veribello. Direi che questa operazione è stata forestata, direi, da internet. Infatti, come già anticipava, dal 24 al 25 gennaio 25.000 tweet negativi prevalentemente riguardo l'operazione, e per capire se sono tanti o sono pochi per il normale ascoltatore, diciamo che una trasmissione di Report, che è una trasmissione calda, totalizza in una serata meno di 10.000 tweet, quindi è un evento molto forte. Quindi l'evento ha attratto l'attenzione, su questo senza dubbio, e quindi ma siete d'accordo quindi con Franceschini che ha detto, ha glissato un po' sui messaggi critici, ha detto beh però vuol dire che ci arriva grande pubblicità in ogni caso, che sia in positivo o negativo basta parlarne, no? Com'è la legge appunto base della pubblicità? Purtroppo noi ci occupiamo di reputazione e su questo tema non crediamo sia l'importante che se ne parli. Fondamentalmente l'operazione è stata molto frettolosa. Nel digitale l'occhio è sempre attento, è sempre acceso e non si può pretendere di lanciare una cosa su scala nazionale in modo, diciamo, impreparato. I commenti sono stati estremamente veloci, piccanti e, a parte l'ironia, molto corretti. Vuol fare qualche esempio di ironia, se possibile, Barchesi? Certamente. Allora, la prima ironia viene ovviamente giocando sul nome, con questa dicotomia tra italiano e inglese che già racchiude il problema: veri brutto, veri pirata, veri triste, veri piango. Ne hanno tirato fuori una scaletta degna di Zelig. In secondo luogo anche hanno criticato proprio la tecnica, la tecnologia non è assolutamente ottimizzata per il motore di ricerca, è un sito per l'estero ma parla in italiano, quindi diciamo ha in sé molte contraddizioni. Ma questo servirà a dare qualche consiglio, secondo voi Barchesi coglieranno dal Ministro della Cultura e poi dal Governo possibili suggerimenti per migliorare? Ma sicuramente sì, perché sono già comparsi almeno dei coming soon, dei vedremo a breve sulla lingua inglese e su altre cose. Internet è una miniera di aiuto e di informazioni, speriamo che il governo interpelli le persone adatte in questi casi, anziché affidarsi velocemente in operazioni che sono pericolose dal punto di vista della credibilità della nazione. Quindi ricordiamo, Veribello, il sito ufficiale che promuove gli oltre 1000 grandi eventi culturali in tutta Italia di Expo, ha una reputazione per il momento, secondo Reputation Manager, non molto alta, non molto di qualità. C'è tempo ancora un pochino per migliorare, visto che inizia maggio, però già sono in ritardi, lavori, cose varie. Vediamo un po' come si procede in questo senso. Grazie intanto, Barchesi. Grazie, buonasera. Grazie, buon lavoro. Sapete, fra le notizie di oggi e quelle più imminenti che riguardano le prossime ore, c'è questa tempesta di neve che dovrebbe abbattersi su New York ed è senza precedenti. De Blasio, il sindaco di New York, ha avvisato tutti gli abitanti: guardate che non è mai successa questa cosa prima d'ora, mi raccomando, non uscite dalle case, fate provviste. E dice che però, insomma, per confortare, tutte le misure di sicurezza le abbiamo prese. Noi allora ci rivolgiamo al nostro Paolo Corazon di 3B Meteo. Paolo, buonasera. Buonasera, buonasera Roberto. È davvero in arrivo? Verso che ora? Quanta neve cadrà e perché? Guarda, non c'è mai stato un precedente. Ci siamo e ci siamo, già iniziato a nevicare nel nord-est degli Stati Uniti, già presa Boston, già presa New York, dove nevica già da un paio d'ore. Ebbene, andranno avanti queste nevicate per un giorno e mezzo, quindi fino alla nostra mattina di mercoledì, fino alla fine di martedì per loro, quindi hanno 36 ore di neve, previsti quantitativi importanti, si arriverà a superare il mezzo metro, in alcune zone ci si avvicinerà anche al metro, in più accompagnate anche da venti molto forti, temperature molto basse, quindi effettivamente è bella tosta. Ora non so se è una cosa senza precedenti, aspettiamo di vedere come va a finire, speriamo che non sia così violenta, però sulla carta si prevedono condizioni veramente proibitive sotto molti punti di vista. Ci dici in quest'ultimo minuto, Paolo, come si crea questa tempesta perfetta, come si dice ogni tanto, no? Di altri tipi di tempesta. Capita che negli Stati Uniti avvengano questi fenomeni, è aria molto fredda di origine artica, quindi arriva addirittura dal polo, attraversa il Canada e spesso riesce a spingersi fino a latitudini più basse. Conta che New York è la stessa latitudine di Napoli addirittura, però in quelle zone riesce a scendere parecchio di latitudine. Lo scontro con aria più mite fa nascere fenomeni anche particolarmente violenti. Non è nuova questa parte degli Stati Uniti ad affrontare simili tempeste, sono molto preparati, leggevo oggi anche di varie allerte lanciate per la popolazione, quindi immagino che riescano a scamparla bene. Adesso non voglio gufargliela, però insomma sono molto preparati da questo punto di vista. Ci pare di sì in genere a New York, speriamo che lo siano anche in questo caso. Grazie Paolo Corazon. Grazie, buona serata. Ciao, buona serata, buon tempo a te. Direi che è il momento di salutarci, poi ritorno giusto qualche momento a ricordarvi le notizie della giornata.